La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, questo è il nostro appuntamento col cinema qui su Radio 24, ritornato dopo l'esperienza Expo nella sua naturale collocazione del sabato nel tardo pomeriggio, per raccontarvi tutto il cinema che c'è in sala, perché ce n'è ancora molto in sala e non solo. E allora cominciamo subito con le novità della settimana. Abbiamo voluto puntare innanzitutto, non per un fatto tanto di qualità, anzi scoprirete presto che non è così, quanto per la notorietà almeno del suo protagonista principale, Nicolas Cage, su Il nemico invisibile. È una spy story di quelle con la CIA, l'FBI, insomma quelle che tante volte hanno animato il cinema americano. La storia di Ivan Lake, un veterano, un agente della CIA che fu in Libano una sorta di eroe, venne catturato, torturato, interrogato, ma come da tradizione non scucì una parola. Ebbene, il destino lo vede oggi una sorta di grande vecchio, di icona per insegnare ai giovani quali sono i valori dell'agenzia, ma d'altro canto un po' emarginato in ruoli di rappresentanza nell'ufficio dell'intelligence, fino a quando non si para davanti a lui la possibilità di un riscatto, addirittura di una vendetta che mai lui poteva più immaginarsi. È un onore per me presentarvi l'ultimo eroe vivente della intelligence americana, Ivan Lake. La CIA ha avuto momenti difficili, ma noi siamo ancora qui. Perché noi cosa abbiamo? Dei valori. Quelli degli affari interni hanno delle informazioni su Banir. Lui è vivo. Muhammad Banir è morto, Lake. Lo è da 22 anni. Che cosa? Ho 8 anni di vita. La demenza frontotemporale è molto aggressiva. C'è la possibilità che tu possa diventare un peso per l'agenzia. Sono diventato un peso! Finirà quando sarai morto! E allora, avete sentito un po' le atmosfere, avete sentito parlare di questo Muhammad Banir, appunto il nemico di un tempo che si dava per morto e invece forse non lo è. Parte una nuova azione che vedrà il nostro rivestire nuovamente i panni di eroe, anche se praticamente in maniera nascosta rispetto alle attività dell'intelligence. Al suo fianco c'è Anton Yelchin, altro attore emergente del firmamento americano, e poi rivediamo Irene Jacob, la ricorderete nella Doppia vita di Veronica, con Kieslowski, che appunto recita il ruolo di una sorta di spalla europea del protagonista. È con noi Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, raccontato così, Il nemico invisibile con Nicolas Cage è un thrillerone d'azione di quelli, come dire, che se ne vedono tanti e se ne sono visti tanti, che non cambia sicuramente la storia del genere, e invece c'è Nicolas Cage, e questo è un fattore, diciamo così, che affossa il film, no, nel senso che mi sembra di poter dire che è un film che voleva stare su delle corde abbastanza note, che lo fa, ma poi alla fine forse proprio l'inespressività in certi momenti di questo attore così strano, perché ha messo dentro nella sua carriera momenti topici da una parte, verso l'alto e verso il basso, ecco, questo è uno di quei momenti verso il basso. Dicevi che è uno di quei film come se ne sono visti tanti, magari lo fosse, verrebbe da dire, nel senso che comunque potrebbe entrare in quella mediocre sufficienza o in quella sufficiente mediocrità in cui vanno a installarsi tanti film di genere, con il super nemico, una spia in pensione o quasi, una vendetta da consumare freddissima, quasi congelata, e via così. Il problema del film è che è veramente un film fuori tempo massimo, in tutti i sensi. Lo è per i suoi protagonisti, perché tu dicevi di Nicolas Cage, che ormai è in una decadenza protratta nel tempo, insomma, non si sa quanto a fondo potrà andare Nicolas Cage finché non lo si vedrà nel prossimo film. Ma anche Anton Yelchin l'abbiamo definito un attore emergente, è vero, però è un attore emergente da una decina d'anni almeno. E Irene Jacob, con tutto l'amore che si può avere per lei, per la doppia vita di Veronica e per l'icona che è stata per un cinema che è importantissimo per noi, comunque anche lei è un viso fuori dal tempo, è un'attrice fuori dal tempo. E la storia, figuriamoci, la CIA, l'eroismo della CIA, il vecchio agente, insomma, era già vecchio 30 anni fa, figuriamoci Figuriamoci ora. Boris, mi inserisco per dire che anche il regista Paul Schrader, a cui dobbiamo tantissimo sotto il piano della sceneggiatura e della regia negli anni 70 e 80, anche lui un filino fuori dal tempo per il passo che imprime a questo film. Il problema è proprio lui, nel senso che oltre tutto questo poteva essere qualcosa che poteva aiutare comunque a inserirsi nel genere. Paul Schrader invece, come in The Canyons, e sembra non afferrare minimamente il senso della storia, anche il senso, come dire, moderno della storia, cioè questa demenza frontotemporale che prende il suo protagonista e che è sostanzialmente una specie di come dire, conto alla rovescia dell'agenzia e della gente, un modo per far capire che è finito un tempo e che non si riprenderà più. Ecco, Schrader non lo capisce e diventa quello che forse non è mai stato in passato, nel senso molto celebrativo, stranamente patriottico, un filo moralista e non solo, esteticamente diventa quasi la parodia di se stesso, quella che era eleganza diventa un grottesco modo di aggirarsi per il mondo e di raccontare attori, conciandoli non proprio alla grande, e ambienti non rendendo loro onore, e poi soprattutto argomenti senza riuscire a centrarli. Vanir, questo super cattivo che va ripreso, sembra veramente la caricatura della caricatura dei nostri peggiori incubi attuali. Quindi che dire, è abbastanza un incubo questo film, a proposito di incubi, perché davvero è una grottesca parodia di quello che neanche ci saremmo riusciti ad aspettare, quindi non ve lo, mi sento di non consigliarvelo. E allora portiamo a casa un non consiglio, perché fra poco ci saranno anche dei consigli. Boris, rimani con noi, adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco poi parleremo invece di grande cinema giapponese con il ritorno in sala del maestro Ozu, e poi con Boris Sollazzo ci ritroviamo più tardi per parlare di un paio di film, di quelli nuovi che stanno arrivando. Uno si intitola semplicemente 71 e poi sarà il momento anche di Terminator. Restate con noi. La rosa purpurea. Oi, c'hai tomato stimina? No, dai. Non siamo diventati Radio Nippon International, siamo sempre a Radio 24, questa è la Rosa Purpurea, i suoni a onde corte della lingua giapponese ci accompagnano sullo sfondo, sono quelli tratti dal film Buongiorno del grande maestro Ozu Yasuhiro, Ozu per tutti, per gli amanti, per i cinefili, che viene riscoperto con una bellissima operazione in queste settimane nelle sale cinematografiche italiane, ovvero i capolavori di Ozu restaurati nei nostri cinema in proiezione in 2K avanzatissima sotto il profilo tecnologico, le sale di tutta Italia, il nuovo Sacher di Nanni Moretti a Roma, l'Anteo a Milano, stanno programmando questi film, addirittura a Milano con un successo clamoroso a livello proprio di media per copia, e noi ne vogliamo parlare con un grande esperto che tra l'altro ci ha messo un po' lo zampino in questo sbarco in tutta Italia dei sei capolavori restaurati di Ozu, ovvero Giorgio Placereani del Far East Festival di Udine, festival benemerito per quanto riguarda tutto il cinema orientale, che insieme alla Tucker Film, che lo distribuisce, ha proprio avuto questa idea che si sta rivelando vincente. Ciao Giorgio, ben trovato alla Rosa Purpurea. Grazie. Allora, spiegaci un po' perché Ozu ha questa importanza, in poche parole, a uno che non lo ha mai sentito nominare, cosa dici? Ma io gli direi che questo autore, che viene considerato il più giapponese dei giapponesi, ma che amava moltissimo il cinema americano, che questo autore riesce a conciliare due cose, tutto, l'astratto, perché ha uno stile molto raffinato, e il concreto, perché ha dei personaggi che il nostro cuore viaggia con loro, insomma. La serenità, perché ha una visione del mondo dove è molto orientale, dove tutto passa, e la commozione perché ripeto che sentiamo questi personaggi come profondamente nostri. E io in una sintesi direi: l'effimero della vita incontra l'eternità dello stile. Insomma, ma alto, aulico, poetico, ma insieme concreto, Ozu, con i suoi colori, con la sua capacità anche proprio di fare quasi pittura con il suo cinema. Giorgio, è un cinema narrativo o il pubblico che si dovesse avvicinare a Ozu troverebbe, come dire, un cinema, fammi dire, più difficile da interpretare? No, devo dire che c'è questa una certa idea di Ozu come regista difficile, ma in realtà non solo è cinema narrativo, anche se sottoposto a uno stile rigorosissimo, ma per di più, ci tengo a dire, è un cinema attraversato da una vena di umorismo deliziosa. Anche in un film drammatico come Viaggio a Tokyo ci sono alcune scene estremamente divertenti senza che il sottofondo drammatico si perda. Allora Giorgio, partiamo con Viaggio a Tokyo, che è il film proprio che in queste settimane sta registrando incassi, è arrivato alla seconda settimana di tenitura al Cinema Anteo di Milano, per esempio. Raccontiamo un po' quello che può essere una sintesi di questo film. Dunque, Viaggio a Tokyo è un film che porta in primo piano un tema che è presente in molti film di Ozu, che è la delusione. Parla di due vecchi signori di campagna, marito e moglie, che vanno a trovare i figli a Tokyo e si accorgono che i figli non hanno tempo per loro. E è un film tutto, si potrebbe dire, disegnato a leggeri colpi di pennello, senza mai scene drammatiche o melodrammatiche, ma che arriva veramente dritto nell'anima e che, ti ripeto, contiene tuttavia anche un certo elemento di sorridente umorismo, perché per Ozu la vita è tutta un unico, tutta intera, e non si può dividere per sezioni. Giorgio, io ti ringrazio per averci raccontato Ozu. Ricordiamo tra l'altro che Tokyo Story è stato giudicato da una commissione di oltre 350 registi di tutto il mondo come il più bel film di tutti i tempi della storia del cinema. Ora, tutto è soggettivo. Sondaggio della rivista inglese Sight and Sound, sì. Ecco, esatto, quindi ora i gusti sono gusti, molti dicono 8.5 di Fellini, altri dicono Bergman, però insomma è un film assolutamente, sicuramente da non lasciarsi scappare. Grazie a Giorgio Placereani del Far East Festival di Udine. Grazie a voi. E allora, dopo aver affrontato il tema del grande maestro Ozu e del cinema giapponese classico, noi torniamo a noi, torniamo ai nostri tempi e torniamo a giocare insieme, come facciamo tutte le settimane, con il nostro film misterioso, due tracce di un film che dovete indovinare per provare poi a vincere una delle due copie in DVD o Blu-ray di questo film. Ascoltiamo la prima. Perché dobbiamo per forza prendere un cazzo di studio? Un laptop, Pro Tools, un paio di microfoni dinamici e la città sarà la nostra sala d'incisione. Vuoi incidere per strada? Esatto. Facciamo ogni canzone in un posto diverso, eh? In tutta New York, tutta. E allora, avete sentito un bel po' di elementi per potervi aiutare, avete sentito termini che si usano nel mondo della musica professionale, avete sentito che si parla di New York, avete sentito che si parla di registrare per strada. Insomma, oggi la nostra Grazia Galli in redazione è stata davvero molto buona. Se avete capito di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpure a @radio24.it col vostro indirizzo per provare a vincere appunto una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, torniamo da Boris Sollazzo. Boris, sei ancora lì con noi? Ovviamente sì. Eccolo qui, Boris Sollazzo in collegamento per parlare di un film che porta semplicemente il nome di una data, il nome di un anno, almeno così sembra, perché quel 71 con il virgolino davanti ci induce a pensare questo. Sentiamo la clip e poi scopriamo se è proprio così con Boris Sollazzo. Welcome to the regiment. You're being deployed on an emergency basis. Belfast. Listen, I don't want you worried about me, okay? I'll be fine, promise you. La clip ancora in lingua originale di 71, una thriller anche in questo caso, che però ci porta in un momento preciso della storia, in un luogo preciso della storia, quelle strade di Belfast incandescenti in quell'inizio degli anni 70 in cui la questione irlandese, cattolici, protestanti sta esplodendo, e proprio nel pieno dell'esplosione che poi porterà avanti una vera e propria guerriglia urbana per una quindicina d'anni. Allora, la regia di questo 71 è di Jon Demange, gli attori Jack O'Connell, Paul Anderson, Sean Harris. Boris, un film che riesce in parte in un tema, diciamo, in una situazione non facile, cioè riscrivere ancora una volta, avere sullo sfondo le questioni dell'Irlanda, di cui il cinema si è occupato tantissimo con film anche straordinari, ma stavolta di farlo senza pretese di storicizzazione o di presa di posizione, e secondo me questo è un pregio, ma di farne uno sfondo per una storia thriller che sta in piedi da sola. Poteva essere anche ambientata nella Sarajevo della guerra del 92, ecco, è forse proprio il momento in cui un fatto storico diventa storicizzato, e permettetemi il gioco di parole, e il cinema può occuparsi di fare il cinema. Hai fotografato perfettamente il senso del film. Ricordo un po' quel periodo storico in cui tra il falsario e Denis Levy l'olocausto è diventato anche un elemento su cui poter fare persino tracce di commedia, e senza essere Chaplin, tra l'altro. E in questo senso colpisce molto 71, perché 71, come dici tu, aveva bisogno di uno scenario di guerra, non necessariamente di Belfast, non necessariamente del 1971, non necessariamente dell'Irlanda del Nord. Certo è che poi la sensibilità del regista e anche degli attori, e anche la capacità di replicare scenograficamente un'epoca storica, aiuta a raccontare quel momento là. A un certo punto diventa necessario anche quel momento là, e in questo senso forse la storicizzazione arriva a suo malgrado, nel senso che può diventare forse la guerra civile più importante che si è combattuta all'interno del vecchio continente nel dopoguerra. Può diventare un elemento che si racconta attraverso il genere che è quello di chi rimane tra le fila nemiche da solo, che è costretto a guardare il proprio incubo, il proprio orrore dalla parte sbagliata, e però è costretto forse anche ad aprire gli occhi su tante cose, su tante ideologie, su tanti stereotipi e su tante convinzioni che gli sono state inserite a forza. Il dialogo tra il genere e la storia qui poi si fa serrato, non si fa forzato, e questa è la cosa migliore del film, cioè non c'è la volontà di mandare un messaggio, né tantomeno comunque di ignorare quello che succede, e il film prosegue in maniera molto interessante, rimanendo un ottimo thriller, e forse in qualche modo, proprio togliendo dalla retorica del tifo quel racconto storico, comincia anche forse a farci affrontare serenamente, a dirci che si può parlare in un altro modo di tutto quello che è successo, di tutto quello che è successo in quegli anni. E quindi, secondo me, ecco, in questo senso è un film da promuovere, ed è anche un film interessante per capire che cos'è il Regno Unito adesso. E allora, 71, da andare a vedere assolutamente in sala in questo fine settimana o all'inizio della prossima. Fate presto, perché con la circolazione dei film in questo periodo, insomma, stanno fuori a volte non tantissimo. Boris, rimani con noi, perché fra poco ci aspetta niente meno che Schwarzi con Terminator Genisys. La rosa purpurea. Per tutta la vita ho preparato mio figlio a guidare l'umanità nella lotta contro le macchine. Stanotte ci riprenderemo il nostro mondo! Ma ad una cosa non potrò mai prepararlo. Le macchine hanno truccato il gioco mandando un Terminator indietro nel tempo prima della guerra per uccidere mia madre. Tornerò indietro. Fammela salvare. Kyle Reese! Sai chi sono? Non ci stiamo preparando al tuo arrivo da più di 10 anni. Noi? Un Terminator. Piacere di conoscerti. Gli sto insegnando a mimetizzarsi. Lo so, ci devo lavorare. E allora, azione, ironia, sono gli ingredienti di Terminator Genisys, il film che riporta in auge una saga storica. È successo qualche settimana fa con Jurassic Park e sta succedendo ancora in America, ne parleremo fra poco, grandissimi incassi. Sta succedendo con Terminator, che in America è partito un po' meno in maniera esplosiva, diciamo, rispetto a Jurassic, ma che ha assolutamente, sicuramente il suo pubblico, che soprattutto ci restituisce di nuovo Schwarzi nei panni che lo hanno, tra quelli che lo hanno sicuramente consacrato. Tra l'altro Schwarzenegger che è al cinema anche con un'altra pellicola, Contagion, quindi insomma è un momento importante almeno per quanto riguarda i grandi schermi d'Italia. Ma andiamo su Terminator Genisys per raccontarlo un po', forse un po' l'avete capito anche da questa clip. I protagonisti, i personaggi soprattutto sono quelli che abbiamo ormai consolidato: Sarah Connor, John Connor che è il leader della resistenza in un futuro prossimo venturo, spedisce un giovane sergente, Kyle Reese, indietro nel 1984 per proteggere Sarah Connor, che ha il volto di Emilia Clarke, e per salvaguardare il futuro dell'umanità. Però c'è un piccolo particolare: il passato non è più lo stesso, potremmo dire, nel senso che per via di una deviazione temporale che io non sto a spiegarvi perché non sarei capace, comunque il nostro si trova in un 1984 che non è lo stesso dell'altra volta, e lì quindi bisognerà rifare tutto per cercare di fermare questi Terminator mandati dal futuro nel passato, per far sì che tutto giovi semplicemente a un'app. Pensate, il mostro, il male, il demonio che distruggerà la Terra e l'umanità è impersonato da un'app, sostanzialmente, si potrebbe dire filosofia spicciola, il cui conto alla rovescia coincide con il conto alla rovescia del giorno del giudizio. Cioè, nel momento in cui quest'app verrà a livello mondiale alla luce, ecco che sarà il momento della resa dei conti. Allora bisognerà fermare anche questa tecnologia che di fatto ci controllerà tutti, oltre, ben oltre i nostri telefonini, i nostri iPad, eccetera eccetera. Insomma, c'è dentro ovviamente tecnologia popolare, chiamiamola così, c'è dentro l'occhio strizzato verso il passato di Terminator, però con un film che almeno per larghi tratti, per abbondanti tre quarti, riesce, come dire, a tenere anche le briglie, a giocare molto spesso con i toni della commedia divertente, ma anche del film d'azione, spesso nella stessa scena. Boris, io mi sono divertito molto, e tu? Io da fan di Terminator poco, e forse questa prequel, questo diciamo nuova linfa al film, alla saga di Terminator, ha proprio questo senso, nel senso di scontentare i fan e provare a costruire un nuovo pubblico, immagino, spero, per loro, perché difficilmente chi ha amato il primo Terminator potrà amare questo di Alan Taylor, perché sembra farsene una ragione, sembra cercare pervicacemente qualsiasi tipo di distanza dal modello precedente, e non in senso positivo. Pensiamo a Sarah Connor, no? La forza di Sarah Connor era l'essere una donna normale che in qualche modo assumeva su di sé la necessità della rivolta, la necessità di costruirsi una corazza, la necessità di diventare eroica. E qui invece è una bambolina molto carina, ma a cui non daresti mai, come dire, il credito di una guerriera. Lo stesso vale per Kyle, che insomma dovrebbe essere anche fisicamente completamente diverso, e non lo è. L'unico che ti porta a continuare a vedere il film è Arnold Schwarzenegger, uno perché si dà proprio l'aria di essersi divertito, di aver giocato con se stesso, come sta facendo in quest'ultimo periodo molto felice della sua carriera. Due, perché all'inizio è estremamente sfacciato nell'autocitarsi, perché il giovane Terminator che viaggia nel tempo è chiaramente Conan, che a un certo punto incontra se stesso come Terminator, quindi c'è un momento di masturbazione cinematografica straordinaria, però anche di citazionismo nerd, che non può non essere amato da chi ama Terminator, ma anche da chi ama Schwarzenegger. E poi però c'è una costruzione narrativa che, come dici tu, all'inizio può affascinare, può piacere, può divertire, perché ai ritmi giusti, alle immagini giuste, anche gli effetti speciali giusti, ma la pista narrativa e visiva si ripete all'infinito senza neanche chissà quale costruzione perlomeno alternata, e quindi le facce di Schwarzenegger sono le stesse, le reazioni dei protagonisti sono sempre le stesse, il racconto è sempre lo stesso, e davvero è difficile giustificare 2 ore e 6 minuti. Oltre a questo c'è da dire che rispetto ai capitoli precedenti c'è un crollo vertiginoso della forza anche visiva, e addirittura si finisce per rivalutare il terzo capitolo, che era straordinariamente brutto, ma che almeno un'idea di narrazione e visiva ce l'aveva, quel Terminator enorme, fuori formato, fuori da ogni convenzione. Questo sembra girato alla fine, soprattutto nella seconda parte, quasi fosse una serie TV di fantascienza di qualche anno fa, se non decennio fa. Tutto questo insomma crea nei grandi fan una grossa delusione. Sono curioso di sapere se si saprà costruire un proprio pubblico, cioè se la fantascienza è diventata qualcosa di più standardizzato adesso, e quindi magari questo Terminator può piacere di più. Credo che la sfida sia soprattutto commerciale per quanto riguarda questo Terminator. Io lo boccio e consiglio a tutti i non millennials, tra virgolette, di non andarci, perché rimarrebbero delusi. Però probabilmente invece i più giovani potranno trovarci qualcosa di interessante. Beh, io che non sono giovanissimo, diciamo così, magari non ci ho trovato molto di interessante, ma qualcosa di divertente sì. Sarei meno drastico nel giudizio, cioè mi sembra un film che dice qualcosa al pubblico, magari non a quello, appunto, come hai detto tu giustamente, nerd rispetto a Terminator, ma a un pubblico comunque di persone che hanno già visto gli altri film. Ti puoi spaparanzare sulla poltrona e non farti troppe menate rispetto a un film di questo tipo che non ti deve cambiare la vita. Non mi sembrano soldi buttati via. Sicuramente è vero, l'ho detto anche prima, che per tre quarti il film tiene, nell'ultimo quarto il film sbracca in maniera abbastanza evidente, però ripeto, secondo me è una situazione come dire, che siccome non c'era sicuramente da riscrivere la storia neanche di questa saga con questo film, tutto sommato può andare bene. Qualche sorriso a 32 denti di Schwarzi Terminator ti fa davvero abbastanza sbellicare. Allora, guardiamo come sono andate le cose. L'avevamo premesso anche negli Stati Uniti, dove dicevo effettivamente quello che dice Boris è vero: Terminator Genesis strizza l'occhio soprattutto ai più giovani, cerca una nuova linfa, un nuovo pubblico per questa saga. Non gli riesce questa accoppiata che è riuscita a Jurassic World, e così come Jurassic World ce lo troviamo primo in classifica ancora negli Stati Uniti. Pensate, ancora una volta nessun film uscito questa settimana negli Stati Uniti è riuscito a superare negli incassi di questa settimana Jurassic World, che ormai veleggia 560 milioni di dollari di incasso globale. Terminator Genesis è terzo ed è in 2 settimane ha raccolto 44 milioni di dollari, che sono pochini per un film di queste ambizioni nel mercato americano. A questo punto noi, prima di passare al prossimo film, però chiudiamo la parentesi su Terminator con un momento del film che è quello dell'incontro fra madre e figlio. John. Ciao mamma. Come fai ad essere qui? Tu mi hai insegnato a sopravvivere. Non sono una macchina, né un uomo. Sono di più. No! Non posso abbandonarlo. Qualsiasi cosa abbiano fatto a John, dobbiamo annullarla. È tutto cambiato. Siamo l'ultima speranza dell'umanità. Ricarica. E allora, Terminator Genesis, sicuramente il film che comunque ha le maggiori possibilità di impatto sul botteghino in questo fine settimana. A questo punto giochiamo di nuovo insieme, giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. No, no, non me la ricordo! Ok, ok, dobbiamo ballare! Dobbiamo ballare! Okay, okay. Dobbiamo ballare! Dobbiamo ballare! Dobbiamo ballare. E anche qui molta musica e molta voglia di ballare. La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo, e provate a vincere uno dei due Blu-ray che vi sveleremo la prossima settimana. Ultimo film fra quelli usciti in questa settimana, ultimo almeno in ordine di narrazione per quanto riguarda il nostro programma, è Giovani si diventa, film firmato da Noah Brumbach con Naomi Watts e Ben Stiller e Amanda Seyfried e Adam Driver, insomma un cast di quegli attori, di quella generazione di attori che al di là di Ben Stiller si sta un po' anche ormai affermando. Penso ad Adam Driver per esempio come uno dei degli attori, dei caratteristi più interessanti espressi dal cinema americano negli ultimi anni. Ascoltiamo la clip e ne parliamo. Abbiamo conosciuto una coppia strana. Perché hai voglia di frequentare una coppia di 25 anni? Non siamo molto più vecchi. Beh, lo siamo, ma dai, sarà divertente. Mi piace come si impegnano in tutto. Fanno un mucchio di cose. Che lezione è questa? Hip hop. Siamo preoccupati per voi. E quel cappello? Cosa? Sei il nonno di Justin Bieber. Per la prima volta nella vita ho smesso di pensare a un ragazzino che imita un adulto. Sì, all'artrite al ginocchio. Artrite e artrite? Di solito lo dico una volta sola. Boris, una coppia di quarantenni fa i conti con la gioventù, forse anche rivedendosi in parte, rispecchiandosi in una coppia di ragazzi un po' più giovani e un po' più liberi. Ma Baumbach, come il suo maestro Woody Allen, dà il meglio quando è sincero, cioè quando racconta qualcosa in cui non teme di scoprirsi troppo. Giovani si diventa, secondo me, la fotografia di un cortocircuito generazionale più che di una lotta generazionale o di un legame tra generazioni che esiste in questo mondo e che lui fotografa benissimo. E Baumbach fotografa l'amicizia tra questi due e il disagio sostanzialmente che si crea tra due generazioni che si sentono vicine, perché i più giovani imitano quelli che li precedono e quelli che li precedono si sentono ancora giovani, perché si vive in un mondo in cui questa gioventù si protrae, soprattutto in Italia, se ci pensiamo ai 45, ai 50 anni, perché i vecchi non lasciano il loro potere. Però evidentemente sono lontani, sono nati in situazioni diverse, hanno interessi diversi. Stiller e la Watts stanno invecchiando, anche se non vogliono riconoscercelo. Ecco, questi piccoli cortocircuiti emotivi ed umani Baumbach li racconta perfettamente, veramente alla Woody Allen. Forse è la prima volta che si avvicina tantissimo a quel maestro, ed è non a caso la prima volta che lo cita in maniera spudorata, soprattutto con crimini e misfatti. Sarà che forse mi sento coinvolto perché comunque sono della generazione di Ben Stiller e Naomi Watts, però il film è davvero una bella sorpresa. È forse il primo film veramente maturo di Noah Baumbach. Potrebbe diventare davvero un manifesto plurigenerazionale, cioè sia dei millennials sia di quella generazione fantasma che ha trovato tanti che raccontavano ma pochi che la raccontavano. E allora speriamo che sia così. Certo non aiuta l'uscita, come dire, a metà luglio, però insomma almeno in Italia, però chissà che il film non riesca a fare, grazie anche a queste presenze in locandina, il suo percorso. Boris, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana qui come sempre a raccontare quel po' di cinema che ancora c'è sugli schermi italiani. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso viabilità, fra poco torniamo insieme e ci aspetta un'intervista con Eleonora Giorgi che ci racconta un film di culto straordinario come Mia moglie è una strega. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qui, quarta parte del nostro programma della Rosa Purpurea. Come sempre scivoliamo nelle case degli italiani con le proposte da vedere in casa. Cominciare dal game della scorsa settimana. Avevamo giocato così. Abbandoni la partita? No, mi rimane da giocare ancora l'ultima carta. Ma non avrei mai voluto usarla. Non è leale. E si trattava di Mia moglie è una strega, film del 1980 diretto da Castellano e Pipolo con Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto, diventato negli anni un piccolo culto di quella commedia italiana proprio a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. Adesso uscito in edizione totalmente rispolverata in un video, lo ha indovinato un solo ascoltatore nostro, ovvero Riccardo Bonaldo di Padova. È stato il più bravo di tutti e riceverà proprio questa nuova edizione in un video del film Mia moglie è una strega, del quale parliamo con Giulio San Giorgio di Fin TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Condannata dall'inquisitore, interpretato da Renato Pozzetto, la strega Eleonora Giorgi ottiene dal diavolo il permesso di tornare sulla terra per tormentare il discendente del cardinale dell'inquisitore, sempre interpretato da Renato Pozzetto. Il fatto però è che se ne innamora. A 35 anni dall'uscita del del film è praticamente in concomitanza con il 75esimo compleanno di Renato Pozzetto, la Mustang ridona luce a un classico della nostra commedia anni 80 firmato da Castellano e Pipolo, una sorta di rifacimento un po' eritico di Ho sposato una strega di René Clair, diventato un'abitudine televisiva fino a qualche tempo fa e poi sparito per qualche tempo per problemi di diritti. La versione è quella tipica di prodotti del genere, che garantisce quindi la reperibilità senza picchi qualitativi e con extra quasi nulli. E proprio l'uscita di Mia moglie è una strega è stata l'occasione per incontrare Eleonora Giorgi. L'ha intervistata Boris Sollazzo per noi nella presentazione romana di questa uscita on video ed è stato veramente un punto interessante, pieno di spunti su quello che è stato il cinema di quegli anni e su quello che è il cinema oggi. Sentiamo. Eleonora Giorgi, siamo qui per Mia moglie una strega, 35 anni di una carriera meravigliosa che insomma le ha dato tante soddisfazioni. Vogliamo ricordare un po' che esperienza è stata quel film particolare con un geniaccio come Renato Pozzetto? Beh, Mia moglie una strega è, devo dire, veramente il più tipico e riuscito prodotto di Castellano e Pipolo, che erano una ditta di autori e sceneggiatori e registi che hanno dato luogo ad alcuni film che da soli, tipo 3 film, sono 100 milioni di euro di incasso. E quando mi hanno proposto Mia moglie una strega, la cosa che mi ha divertita di più e che io tutto sommato tenevo molto nascosta, non solo di essere molto giovane, molto ragazzina, ma di essere vagamente disneyana. Io sono una persona molto disneyana, mi piacciono i buoni sentimenti, non ho paura dei luoghi comuni quando sono sul bene, mi piacciono le favole, pretendo il lieto fine, pretendo di credere alle cose che vadano bene, pretendo che chi rischia vinca. E quindi proprio su questo loro gli è venuta in mente questa cosa della streghina, anche perché poi comunque a modo suo, un po' come sono tutti i miei personaggi, nel candore era una molto autonoma, molto determinata. Quindi devo dire che insieme a Borotalco è il mio film preferito. Ecco, io devo dire che amo molto questo film perché mi sembra che la rispecchi molto, no? Lei ha parlato di una principessa e lei è sempre stata una principessa, però non disneyana, di quelle che si sono costruite da sole. Se penso alla sua carriera, penso Lattuada, Montaldo, Verdone, lei è veramente una delle poche attrici che è riuscita a fare film di ogni genere cinematografico, che per un'attrice, per una donna è ancora più difficile nel cinema italiano. Sì. Poi forse, devo anche dire che forse ho avuto anche la fortuna di esordire in un cinema che aveva i generi. C'è anche questo da dire, oggi si è molto uniformato il prodotto. Lei pensi che io ho avuto comunque anche la Cavani con Mastroianni, Franco Rossi, che è quello dell'Odissea, e Brusati. Quindi ho spaziato veramente fra moltissime cose. E come dicevo prima, mi corrisponde la strega perché principessa no, ma il mio sogno, cioè io, il mio sogno, voglio fare una regina, possibilmente in un film di Checco Zalone. Ah, hai capito? Il mio ruolo preferito è la regina e non sono ancora riuscita a farla. Comunque, quello che ripeto che della strega era carina, che era in quella chiave di favola, era comunque una, era a modo suo una donna estremamente determinata, indipendente, autonoma, proprio perché era magica, e però piena di candore. E siccome il candore intelligente ti fa perdonare la bellezza, anche se la bellezza è un mestiere, non è una cosa vera, lo è in piccole dosi. Poi ci sono i professionisti che ti insegnano come si è belli e come diventare belli. Però ecco, siccome la bellezza fa piacere ma fa anche invidia, sei mista e frammista a un candore intelligente, la perdoni. E allora quello è il mio personaggio femminile preferito. Della ragazza che, se vogliamo, ragazza, poi stiamo parlando di una me al passato, che era carina sua malgrado, che non ci contava troppo, e che però lo apprezzava e lo proponeva al mondo così, con un certo candore. Io penso a Mia moglie una strega, a Borotalco, lei non è la donna bella, ma è la coprotagonista, anche grazie a Pozzetto e a Verdone che lasciano anche quello spazio. Adesso le donne sono costrette solo in ruoli marginali, spesso e volentieri. Beh, Carlo Verdone però dà spesso dei bellissimi ruoli, la Cortellesi è una raffinatissima interprete, Margherita Buia anche, non si accontentano di ruoli, quindi diciamo che in alcuni casi questo anzi è continuato e forse si è anche ampliato. Genericamente parlando, direi che è un po'... Un po' un abbassarsi tutto dei contenuti del cinema italiano, il cinema italiano di genere di cui lei parlava prima, eccelleva però. Cioè, voglio dire, Sergio Leone faceva i western all'italiana per risparmiare, è diventato un maestro mondiale, quindi noi quando ci muoviamo non è che scherziamo. E quindi io ho avuto quella fortuna anche, ecco, quindi io le considerazioni gliel'ho detto, poi essendo una persona che trova sempre nel mezzo il giusto, io il mondo lo fermerei un po' e mi metterei a ragionare tutti insieme, col sorriso possibilmente, dicendo attenzione, che sta succedendo? Eleonora Giorgi, alla Rosa Purpura, intervistata da Boris Sollazzo per l'uscita in un video di Mia moglie è una strega. Ritorniamo invece a parlare del cinema che si può vedere in casa la settimana prossima con i consigli di Film TV dalle televisioni. Giulio San Giorgio è sempre con noi. Giulio, cominciamo con un classico senza tempo come Senso di Luchino Visconti. Sì, domenica su Restore alle 21.40, partendo da una novella di Camillo Boito, Visconti comincia la sua distaccata e molto lucida revisione sui viali del tramonto del mondo aristocratico che nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento conosce gli ultimi bagliori del suo crepuscolo inesorabile. Un gruppo di scrittori di grandissima classe, perché oltre a Visconti ci sono Suso Cecchi D'Amico, Paul Bowles, Tennessee Williams e Giorgio Bassani alla sceneggiatura, e si sforzano di rifotografare un momento storico cruciale, ovvero la vigilia dell'Unità d'Italia, con un superbo e decadente melodramma barocco su un amore alieno al suo mondo e alla storia che avanza. Quindi dal neorealismo che Visconti aveva fondato si passa con questo film a un realismo storico e critico, è inutile ribadirlo ma lo ribadisco lo stesso, uno dei capolavori del cinema italiano. Assolutamente utile ribadirlo, Senso su Rai Storia alle 21.40 di domenica 12 luglio. E invece giovedì mattina, tutt'altra atmosfera e tutt'altro genere, però anche questo a suo modo diventato un piccolo classico, è LA Confidential. Sì, su Iris alle 8.50 di giovedì, è un film tratto da uno dei grandi cantori dei luoghi scuri d'America, che oltre a essere uno dei massimi scrittori statunitensi, ovvero James Ellroy. È un noir nella Los Angeles degli anni 50, dove il mondo del cinema, della malavita, della politica e della legge confondono in maniera inestricabile i loro confini, e dove i poliziotti sono spietati quanto gli assassini e le prostitute hanno i volti delle grandi vidive di Hollywood. Firma il tutto Curtis Hanson, che sa fare del buon artigianato hollywoodiano, ed è illuminato da un cast maiuscolo: Guy Pearce, Kevin Spacey, Russell Crowe e una meravigliosa Kim Basinger. Un film ribollente di violenza in cui lottano l'uno contro l'altro il romanticismo e il nichilismo. E ricordiamo allora l'appuntamento, giovedì 16 luglio, LA Confidential su Iris alle 8.50 del mattino. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla fine della Rosa Purpurea, si chiude qui la nostra puntata di questa settimana. Appuntamento sabato prossimo alle 18 per tutto il cinema che c'è qui su Radio 24.